America, in the face of our common dangers. It's been unbelievable. I'm beginning a conversation with you, with America. Buongiorno America, di Stefano Pistolini. Stampa quella roba e sei un uomo morto! Non si tratta più di me. Dovresti uccidere tutti i giornali del paese, non sei forte abbastanza per farlo. Gente come te ci ha già provato, col piombo, le prigioni e la censura. Ma fin tanto che un solo giornale stamperà la verità, tu sei spacciato. Cambia la comunicazione, cambia talmente tanto, se pensate addirittura che è morto un conduttore di MTV, ma come, la televisione dei giovani, morto di cause naturali, e ci dispiace pure, ce lo ricordiamo, si chiama Ken Ober, aveva una cinquantina d'anni, era stato animatore nei primi anni 80 di un gioco, uno dei pochi giochi fatti da MTV, si chiamava Remote Control, era un quiz sulla cultura popolare che faceva domande al limite del demenziale, del tipo preferisci essere morto o essere canadese, insomma, però la comunicazione cambia, corre, la stampa forse non è proprio più quello che si diceva, no? Che suggeriva anche Humphrey Bogart nel nostro preziosissimo insert d'apertura, e le notizie si rincorrono, secondo le quali per esempio la vita dei giornali, quelli di carta stampata, quelli che siamo abituati a sfogliare noi e i nostri amici americani, la mattina sembra segnata, sembra che con la pubblicità e le vendite in caduta libera, con prospettive scarsissime di rimbalzi di vendita imminenti, i giornali, più in genere la carta stampata, stiano tagliando le spese, sembrano rassegnati al definitivo salto di qualità, no? il passaggio al digitale. Proprio in questi giorni si parla della stessa tematica in termini televisivi. Ebbene, forse anche i giornali dovranno finire sul digitale, e l'epoca della stampa in quanto tale entrerà a far parte della storia. Parliamo di tutto questo perché da New York, che resta il faro naturalmente della nostra trasmissione, arriva una notizia che va in direzione completamente diversa. A New York c'è un giornale, un quotidiano che si chiama Daily News, che in tempi ancora recenti vendeva 700.000 copie, adesso con la crisi economica anche qui le vendite si sono contratte a poco più di 500.000 copie tutti i giorni, comunque una testata importantissima, la terza testata della grande mela dopo il New York Times e il New York Post, allorché sono defunte tutte le altre testate quotidiane che facevano concorrenza, fra cui il nostro molto amato New York Sun. Ebbene, il Daily News ha prodotto un investimento eccezionale, addirittura 150 milioni di dollari sono stati stanziati dal proprietario unico del giornale, che si chiama con un nome magnifico, Mortimer Zuckerman. Ebbene, Mortimer Zuckerman ha messo lì 150 milioni di dollari per comprare delle nuove presse, ovvero delle nuove macchine che stampano il giornale, naturalmente in modo molto più veloce, e quindi il giornale potrà essere chiuso più tardi, con notizie più aggiornate, più in concorrenza con internet, soprattutto con una qualità del colore straordinaria, che metteranno, dicono, il nuovo Daily News in diretta concorrenza proprio con la televisione e certamente con internet. Il giornale sarà, il quotidiano sarà interamente a colori, la qualità delle foto sarà quella dei grandi magazine, sarà piacevole da sfogliare. Da sempre peraltro il Daily News è famoso come il quotidiano fotografico di New York, quello dove tutto è rappresentato prima di tutto su base fotografica. Si sceglie la strada quindi del grande investimento sulla carta. Del resto, in una intervista il signor Zuckerman dice: io sono un contrarian, sono uno di un bastian contrario, come diciamo noi, uno che fa il contrario di quello che indica la tendenza, l'ho fatto per tutta la mia carriera nel mondo degli affari, mi sono sempre trovato bene, sono convinto che anche questa scommessa e questo investimento finiranno per essere redditizi, addirittura che la pubblicità tornerà sulle nostre pagine perché si innamorerà del prodotto, e quindi per quanto mi riguarda, per quanto lo riguarda, e con un occhio così un po' curioso, un po' da voyeur, anche per quanto riguarda noi, che nonostante tutto di sfogliare il giornale abbiamo sempre un gran gusto, ecco, qui la stampa non è morta, forse anzi potrebbe conoscere una seconda giovinezza. Primo piano. This is not a decision that I would have made. I think terrorism isn't just attack. It's anxiety, and I think you feel the anxiety and frustration. Questa è una frase che ci interessa moltissimo. È stata pronunciata da un personaggio che qui a Buongiorno America e anche prima a Jefferson non godeva, come si dice, buona stampa. Ne parlavamo di solito per parlarne male, ma ha detto una frase che ci è piaciuta. E la frase è: il terrorismo è anche solo ansia. Ovvero, il terrorismo non sempre si concretizza attraverso gesti violenti che provocano morti, feriti e quant'altro. Il terrorismo può passare attraverso strade ben più subdole, ad esempio quella dell'ansia, della preoccupazione, della paura, del mal di vivere, che si può ad esempio assaporare per le strade di New York quando arriva una notizia che in un certo senso risveglia antichi, manco tanto antichi, in realtà fantasmi solo di ieri, che risalgono all'11 settembre 2001. Il personaggio in questione è David Paterson, che è il governatore dello stato di New York, che ha fatto l'ennesima uscita, anche lui da bastian contrario, andando contro la volontà della Casa Bianca di ambientare per l'appunto a New York l'imminente processo ai quattro responsabili che sono in questo momento, che saliranno alla sbarra in questo momento per l'attentato alle Torri Gemelle, al World Trade Center. C'è grande dibattito sulla questione, ne stanno parlando in tanti, ha fatto un outing molto deciso anche l'ex sindaco di New York Rudolph Giuliani, che sull'argomento è uno che conta parecchio, anche perché era il sindaco di New York nel momento dell'attacco e che ha criticato il piano di processare i cinque complici della strage dell'11 settembre a Manhattan. Ha detto Giuliani: sarebbe come aver cercato di processare i responsabili di Pearl Harbor alle Hawaii. Concettualmente è il segnale che per l'amministrazione Obama l'America non è più in guerra con il terrorismo, e quindi, dice l'ex sindaco della tolleranza zero, dice: attenzione, forse l'America sta alzando la guardia nel momento sbagliato. Il processo dà un vantaggio non necessario, ha detto ancora Giuliani, ai terroristi e mette New York a rischio attentati. Eric Holder, il ministro della giustizia, che è poi alla fine il titolare della decisione in questione, la vede diversamente. Lui è l'uomo che ha deciso di trasportare, anche se con misure di sicurezza che vi lascio immaginare, i cinque imputati da Guantanamo Bay, dove si trovano in questo momento, a New York. Fa sapere che non vedranno neanche mai la luce del sole i personaggi in questione, guidati dalla quella che è considerata la mente dell'attentato, ovvero Khalid Sheikh Mohammed. Si sposteranno solo attraverso dei tunnel, non vedranno la luce del sole, verranno rinchiusi nel carcere dove venne trattenuto Madoff, un inquilino illustre, in un braccio di massima sicurezza, pochissime celle, tutta la zona, praticamente tutta l'area meridionale della Grande Mela sarà controllata da ingenti forze di polizia. L'accesso sarà limitato al minimo. Pensate già il mal di testa solo a sentire queste cose che verrà agli abitanti, ai commercianti, a chi lavora nella zona. Paradossalmente, pensate un po', tutto ciò si svolgerà a letteralmente pochi passi da Ground Zero, dove come ha sottolineato per l'appunto Paterson nella sua presa di posizione di ieri, ancora non siamo stati in grado di ricostruire ciò che è stato distrutto, e ora già torniamo in quel luogo per celebrare questo processo che per l'appunto, cogliendo la sua provocazione, trovandola certamente interessante, porta un'altra dimensione, forse addirittura più moderna, forse addirittura più ventunesimo secolo, un'altra dimensione del terrorismo per le strade di New York, per le strade di Manhattan, una dimensione completamente impalpabile, la sensazione che il nemico sia lì, sia chiuso in una cella, ma che poi abbia dei filamenti probabilmente impercettibili che lo connettono a qualcosa che è fuori, che è per le strade, che può essere ovunque in una città che naturalmente non ha più voglia di tutto ciò. David Axelrod in prima persona, lo stratega di Barack Obama, è stato un uno dei principali sostenitori del processo a New York, ha fatto notare che soprattutto sono vittime civili quelle che sono morte nel giorno dell'attacco alle torri, che New York in questo modo può elaborare il lutto, può vedere con i propri occhi chi ha commesso una tale infamia. Certamente i livelli, come si dice, i livelli di allarme, quelli registrati, quelli percepibili, quelli ufficiali, ma anche quelli impercepibili a New York, tendono a salire. New York, New York, does it taste right? Does it feel right? New York, New York, does it burn bright? All the starlight, do you know my name? Do you even care? Do you love when I take you up there? New York, New York. But I am a big believer in technology, and I'm a big believer in openness when it comes to the flow of information. I think that the more freely information flows, the stronger the society becomes. Più l'informazione può correre in libertà e più la società è libera. Queste sono le parole forse più incisive pronunciate in questi giorni durante il tour in Asia da Barack Obama, che è un tour che ieri ha conosciuto forse il suo giorno più atteso, ovvero l'incontro tra Obama e il suo omologo cinese Hu Jintao, un incontro dei buoni propositi, forse ci verrebbe voglia di definirlo così, forse anche un po' una rappresentazione di molto fumo e poco arrosto, ma del resto forse anche questa atmosfera, no, cautamente del volemose bene, diciamo così, può essere un dato su cui riflettere, se non altro per come mette al passato quello che fino a tempi recenti era uno scenario di conflitto, di disaccordo, di sospetto, insomma. Certo, ci sono differenze, sono emerse anche nella conferenza stampa di ieri, ci sono reciproche pressioni, ma l'atmosfera è essenzialmente costruttiva. Si è parlato di clima, di crisi economica, di proliferazione nucleare. Si è fatta una stranissima conferenza stampa in cui ai giornalisti non è stato consentito né di parlare né di fare domande, quindi in pratica hanno parlato solo lui, potevano, tanto valeva, solo loro, tanto valeva che lo mettessero per iscritto, ma insomma le cose sono ancora un po' ingessate, non è che siamo nel pieno di quegli incontri, no, nelle sale consiliari dei paesi che piacciono tanto a Obama. Qui l'atmosfera è diversa, ma come ripeto, la sensazione generale è perlomeno costruttiva. Siamo riusciti a connetterci nuovamente con Saro Capozzoli da Shanghai ad ascoltare i suoi punti di vista. Saluto Saro, ma vorrei anche da subito che tu introducessi poi, insomma, questo tema della libera circolazione dell'informazione su cui Obama ha molto insistito e su cui suppongo qualche imbarazzo bene o male avrà incontrato, avrà suscitato. Saro. Sì, buongiorno a tutti. Ciao. Sì, effettivamente si è toccato un tasto importante, no? Perché qui si parla tutti di web, di censura del web, che esiste. Qui infatti ci sono certi siti come ad esempio Facebook, che anche, diciamo, non sono molto ben visti neanche in Italia, diciamo, o YouTube e altri ancora sono bloccati. Ecco, uno arriva qui a terra e non riesce più a collegarsi. Sì. Pronto? Sì, vai avanti, c'è un po' di disturbo. Sulla linea, vai. Ecco, quindi il diciamo è una situazione certamente non di libertà di informazione. D'altra parte però c'è una massima libertà, una grande libertà di tecnologica nel settore web. Io oggi notavo appunto che io in ufficio ho 100 megabyte per secondo di collegamento. No? Ci vuoi fare morire d'invidia? E ce l'ho da diversi anni, è una cosa che non avevo notato. Cioè noi stiamo dibattendo adesso se andare a arrivare ai 20 megabyte quando la Germania, la Francia stanno per investire, andando appunto a portare il 96%, la gran parte della popolazione a 75 megabyte, e qui è normale aver raggiunto già il massimo. Certo. E le infrastrutture c'è un grande investimento, perché loro hanno capito qui in Cina che l'apertura e la diffusione di internet, infatti sono 380 milioni di internauti, uh-huh, no? E ha già superato praticamente gli Stati Uniti ampiamente come collegamenti. Il paese è forse fra i più connessi al mondo e proprio paradossalmente uno forse anche dei più controllati. Però ecco, diciamo però per interpretare le parole di Obama, Saro, se l'hardware, come stai raccontando, è fantastico, il software lo è molto meno, no? Appunto i canali di libertà di espressione sono ancora tutti da discutere, da mettere a punto. Certo, bisogna vedere quali sono le priorità e le esigenze dei cinesi. Qui c'è la possibilità di parlare seriamente di telemedicina. Gli ospedali si collegano con grandi flussi di dati da una parte della Cina, si mandano radiografie, si mandano informazioni importanti senza nessun problema, informazione diciamo tecnica e favorita. Ecco, io stavo notando che c'era anche il mio televisore a casa, che è collegabile automaticamente alla wireless, cioè a internet. Si può entrare con il mio televisore, posso entrare direttamente in internet, scaricare legalmente, ci sono degli abbonamenti dei film, mi guardo direttamente il mio film, c'è nel mio televisore dei film che poi posso mantenere o cancellare. Senti, Saro, ma se capisco bene la tua provocazione, la strada su cui stai camminando è quella del dire che forse altrove, per esempio in Occidente, siamo troppo ossessionati dalla comunicazione, dall'informazione, dalla relativa libertà, che poi i grandi canali del progresso potrebbero avere anche delle prevalenze o delle priorità diverse. No, bisogna dare tempo al tempo. Ricordatevi che i giornalisti sono dal 2000 però che possono diciamo girare liberamente in giro per la Cina. C'è di reportage che si leggono appunto anche i giornalisti che poi hanno fatto libri importanti, eccetera, hanno potuto farli dal 2000 in poi, ecco. Quindi però è un discorso molto diciamo graduale, ecco, bisogna dar tempo alla Cina. La Cina 20 anni fa, io sono venuto qui appunto 20 anni fa, non era aperta assolutamente, c'era molto meno libertà in tanti settori. Ora, cose che facciamo noi ogni giorno, che sono una cosa normale, aprire su internet la prima pagina di Repubblica o del Corriere così, o del Sole 24 Ore, prima era impensabile, ora si può fare. Non si poteva neanche ricevere, dire anche la carta. Ora ci sono giornali da tutto il mondo, purtroppo non c'è il Corriere, non c'è nulla, non c'è giornali italiani, non ci sono, qui non si vendono, ma perché non perché non c'è libertà, perché non c'è interesse da parte della nostra stampa, certo, di diffondere, certo, le notizie. Però per dire, io quello che dico è vero, è giusto rimarcare questi principi che sono importanti, però bisogna dare tempo al tempo, che teniamo conto che è un paese che in 20 anni ha... ha percorso 100 anni di storia occidentale da sola, ecco, quindi è un qualcosa che bisogna sempre ricordare quando si parla della Cina. Va bene, grazie a Saro Capozzi, perché con questa puntualizzazione in un certo senso risponde a suo modo, ma dall'alto insomma di una esperienza sul campo in Cina di molti anni, anche, no, alle osservazioni, alle pressioni prodotte niente meno che dal primo cittadino degli Stati Uniti d'America. E poi comunque ieri hanno arrestato un giornalista della CNN perché davanti a una telecamera faceva vedere la famosa maglietta di Obama Mao in abiti da guardia rossa, e se lo sono trattenuti per 2 ore, qualche problemino indubbiamente ancora c'è. Ne continuiamo a parlare qui a Buongiorno America, io sono Stefano Pistolini, in redazione c'è Gloria Guerrera, in regia a Roma Valerio Rocchetti, a Milano Carmelo Lauricella, la mail è buongiornoamerica@radio24.it, la pagina Facebook è redazione Jefferson sono tre. Stanotte dopo mezzanotte andiamo in replica, andiamo in diretta invece domani dopo l'una e mezza, sempre qui su Radio 24. Auguriamo a voi tutti di stare assai bene.